la giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di azioni diverse. Sono partiti dei blocchi dal campo di Metzingen, che questa mattina era sotto assedio, con la famigerata tecnica delle 5 dita si è partita a gruppetti di qualche migliaio di persone verso i binari, più o meno all'altezza di Bahnhof Gorde, fra Bahnhof Gorde e Tanksel, che diciamo rispetto al campo è a ovest. I binari sono a nord del campo e quindi eravamo a nord-ovest, diciamo. Qualcuno è riuscito ad arrivare fino ai binari e togliere qualche sasso come azione di sabotaggio, però diciamo non c'è stato un blocco che poi abbia tenuto sui binari. Le forze erano poche e la polizia era molto riuscita a battere sul tempo, però il coordinamento fra i vari blocchi insomma, che cercavano di arrivare a questi binari è stato abbastanza, è stato calcolato bene. Un blocco invece un po' più pacifista, diciamo, questa qui era l'area un po' più autonoma, no? Che partiva dal campo. Invece un blocco un po' più pacifista sta ancora tenendo un blocco sui binari a Harlingen, e più o meno con 1000 persone sono ancora lì, ovviamente minacciati di sgombero. Questo blocco c'era stato anche l'anno scorso e loro hanno tolto un sacco di sassi dai binari, insomma hanno sabotato abbastanza i binari e poi si sono seduti sopra, quindi è un sit-in. In aggiunta, in questo momento, un'altra azione che sta bloccando i binari è stata fatta da Greenpeace, che ha messo un track, diciamo, di traverso, ora non so bene come perché mi sono solo raccontato, non l'ho visto, saldato, sbullonato sui binari, una roba che ci si mette almeno 4 ore a smontare. Anche questa è un'azione che si è fatta l'anno scorso. In questo momento il treno è fermo in una cittadina un po' distante da qui, diciamo al sicuro, fermato lì al sicuro, quindi una stazione grossa, diciamo. Dovranno quindi riuscire, prima di far muovere questo treno, a sgomberare il blocco sui binari sia di Greenpeace che quello ad Harlingen. Quindi questo richiederà un sacco di ore. Tra l'altro l'obiettivo per loro, per la giornata di domani ormai, è quello di arrivare ad Annenberg, dove queste scorie passeranno dal treno ai truck, ai camion, e i camion li porteranno a Gorleben, dove c'è il magazzino di stoccaggio. In quel frangente lì si pensa ci saranno le prossime azioni, perché è diciamo, un passaggio abbastanza delicato e anche l'anno scorso è stato un momento di azione. Ora questo passaggio però devono, per motivi di sicurezza, compierlo con la luce del sole, perciò quello che si immagina ora è che prima di domani mattina non potrà passare di qua il treno. Quindi in questo momento, se calcoliamo che il treno dovrà passare di qua intorno a venerdì, oggi siamo sabato, passerà domani mattina, diciamo che il blocco è stato di una trentina di ore, più o meno in ritardo, ecco, che si è dato al treno con questi blocchi. E un'altra cosa che sta succedendo è che la polizia anche stanotte, sempre con un'azione diciamo disturbatrice, è venuta ancora al campo di Metzingen a minacciare di sgomberare, con la scusa di voler tenere libera la strada pubblica che passa per questo paesino,